I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Dopo l'ottimo risultato messo a segno lo scorso anno per la produzione industriale, arriva a gennaio un brusco stop. Uno stop che in realtà era atteso, era stato previsto da molti centri studi, ma certamente non nelle dimensioni in cui è emerso oggi nei dati diffusi dall'Istat. Tanto per capire, a dicembre del 2016 la produzione aveva segnato un incremento annuale pari all'1,6%, miglior dato dal 2010. Ora a gennaio mostra un ribasso del 2,3% sul mese precedente, dello 0,5% sull'anno prima. Come si diceva, a colpire non è tanto il calo in sé, quanto piuttosto la dimensione di questa flessione. Gli economisti si aspettavano un inizio d'anno all'insegno della debolezza, ma con la produzione in calo dello 0,8% e non del 2,3%, come si è verificato. In più, questo risultato mensile riporta indietro le lancette al gennaio del 2012, quando per l'ultima volta si era registrato un andamento negativo così pesante. Altro elemento di preoccupazione riguarda il fatto che tutti i comparti, con la sola eccezione dell'energia, evidenziano un andamento negativo. Per il resto è gelo totale, sia per la produzione di beni strumentali, sia per la produzione di beni intermedi e anche per i beni di consumo. Segni evidenti, purtroppo lo ripetiamo da molto molto tempo, di come per l'Italia, al contrario di quanto accade in quasi tutti gli altri paesi, l'uscita dalla crisi sia ancora decisamente altalenante. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.